America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una giornata, quella di ieri, piena di alti e bassi per l'umore del presidente americano, per l'umore di Barack Obama, una giornata che si è chiusa con un trionfo di quello che alle sue radici resta il movimento per i diritti civili. The Hammer, una canzone storica per i diritti civili americani, una canzone scritta nel 1949 da Pete Seeger, grande chansonnier, grande folk singer americano. Questa canzone divenne poi un po' l'inno del movimento per i diritti civili. Beh, l'ho scelta perché ieri notte, dopo una battaglia durata mesi, finalmente il Senato è riuscito a prorogare di 6 mesi i sussidi per la disoccupazione per circa 2,5 milioni di persone che rischiavano di rimanere non soltanto senza un lavoro, ma addirittura senza una lira, un passaggio importante cercato da parecchio tempo dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che proprio alcuni giorni fa era intervenuto per sollecitare il Senato alle sue responsabilità per attaccare i repubblicani che si opponevano al passaggio di questa legge. E beh, ci sono alcuni retroscena ovviamente. Perché i repubblicani si opponevano al passaggio di una legge che tutto sommato poteva convenire anche a loro dal punto di vista del populismo, e visto che ci sono elezioni in arrivo a novembre? Beh, il fatto è che i democratici avevano inserito in questo pacchetto di legge due clausole, due proposte di aumenti fiscali, una per i responsabili, per i manager dei fondi hedge, e un'altra per certe categorie di piccole medie imprese. E dunque i repubblicani, che di tasse non vogliono sentirne parlare, hanno scelto il principio di opporsi a una legge che appunto alla fine per compensare i circa 34 miliardi di dollari che saranno sborsati in questi 6 mesi per far fronte a questi sussidi, circa $300 alla settimana per disoccupato, ecco, dicevo, i repubblicani hanno scelto di opporsi all'aumento di tasse piuttosto che favorire l'elargizione di questi sussidi. Ecco, vediamo un attimo la componente economica di questo pacchetto. Da un punto di vista pratico l'impatto sarà praticamente vicino allo zero, perché stiamo parlando di una cifra pari a un quarto dell'1% dell'economia americana, che è stimata in circa 14 mila miliardi di dollari. Non solo, questo pacchetto rappresenta grosso modo il 5% del pacchetto di stimoli dell'economia di 860 miliardi di dollari, che come abbiamo visto tutto sommato ha fatto poco. Misura populista, dunque, vittoria importante per il presidente Obama. And finally, because of this law, the American people will never again be asked to foot the bill for Wall Street's mistakes. There will be no more tax-funded bailouts, period. Ecco, dicevo, successo del presidente Obama, che per fortuna sua è di nuovo improvvisamente felice. Perché dico di nuovo improvvisamente felice? Perché il presidente sta passando degli sbalzi di umore, di alti e bassi dal punto di vista del successo e dell'insuccesso politico, che a volte si susseguono nel corso di poche ore. Prendiamo la giornata di ieri. In mattinata ha firmato la legge per la riforma del sistema finanziario, una legge storica, un momento molto importante della sua presidenza. C'erano tutti, la foto di famiglia con senatori, deputati, ministri, col vicepresidente Biden. Sembrava un quadro storico di quelli destinati a restare nelle aule del Congresso, questi grandi affreschi dipinti che ogni tanto vediamo per i grandi eventi storici. Ebbene, il presidente, parlando appunto ai suoi compagni di partito per celebrare questo momento, ha detto che la riforma consentirà di evitare il pericolo di avere istituzioni troppo grandi per poter fallire, soprattutto eviterà il rischio di una nuova crisi sistemica. Consentirà, ha detto il presidente americano, di rilanciare l'economia e l'occupazione. Peccato che poco dopo le parole del presidente Obama, dense di ottimismo, cariche di speranza e di felicità, ci sono state le parole di Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, il quale direi che non è stato proprio rassicurante. Bernanke ne ha avuto per tutti, ha espresso dubbi sulla solidità della crescita americana, ha escluso che l'occupazione possa tornare ai livelli del pre-crisi, prima del 2012 addirittura, mentre Barack Obama aveva promesso già per l'autunno del 2010 un tasso di disoccupazione soddisfacente e la creazione addirittura di 7 milioni di posti di lavoro. Non ci sono stati. Il governatore ha anche rilevato che la situazione finanziaria in Europa è sì migliorata, ma resta difficile e bisognosa di grandi attenzioni. Il presidente della Fed ha parlato, devo dire, in toni come in genere fa, moderati, sembrava molto tranquillo, però la miscela di queste tre osservazioni, fra le più importanti del dibattito economico e politico di questi giorni e tutte negative, questa miscela ha avuto un effetto esplosivo sui mercati. E più Bernanke parlava di prospettive insolitamente incerte, di crescita moderata per i prossimi anni, più i listini andavano a fondo. Il Dow Jones addirittura a un certo punto perdeva l'1,5%, alla fine ha perso circa l'1,1%. E direi che la tensione è esplosa, secondo me, più per la mancata notizia di un intervento di supporto della crescita a breve da parte della Fed. Il mercato voleva sentire parole rassicuranti da parte di Bernanke e dunque voleva sentire l'impegno e la promessa immediata di aiutare l'economia. Invece Bernanke si è limitato a dire: quando il momento verrà, saremo pronti ad aiutarvi. Ben Bernanke ha così diminuito leggermente le prospettive della crescita americana, ma la sua posizione, secondo gli esperti, è eccessivamente ottimistica. Un economista come Nouriel Roubini ritiene che il rischio di un rallentamento forte ci sarà. Le previsioni di Bernanke restano per una crescita di circa il 3%, senza che però si accompagni una crescita dell'occupazione. Bernanke ha anche parlato della riforma del sistema bancario, appunto firmata ieri dal presidente. Ha detto che è un passo in avanti molto importante, ma che resta molto molto lavoro da fare. Nel frattempo però sono emerse alcune curiosità e chissà quante ne emergeranno nei prossimi giorni. Ad esempio, nelle migliaia di pagine di questa legge, migliaia di pagine che rappresentano il terrore degli uomini d'affari americani perché non sanno che cosa si nasconde, si è scoperto che è stata inserita una clausola che impedisce appunto alle aziende americane di importare minerali dal Congo. Perché questa clausola? Perché la vendita dei minerali dal Congo serve a finanziare la guerra civile. Disastro, vittime fra la popolazione, bambini, donne e così via. Può sembrare bizzarro che un'iniziativa di questo genere, sicuramente importante dal punto di vista morale, trovi una sua collocazione in un progetto di legge per la riforma finanziaria. Le aziende americane ovviamente sono alquanto spaventate perché si rendono conto che chissà quante altre iniziative simili si nascondono nelle pieghe di questa legge. Ed è questo, se volete, un esempio di quell'incertezza di cui parlavo qualche giorno fa, che non piace al mondo degli affari americani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. La dedico ai Vampire Weekend, i vampiri del fine settimana, una band indie rock newyorkese del 2006, giovanissimi, che però ieri è stata denunciata dalla ragazza che appare nella copertina del loro ultimo album Contra. La ragazza si chiama Kristen Kennis e ha chiesto, pensate, addirittura 2 milioni di dollari alla band e al fotografo perché non aveva autorizzato, non aveva dato il permesso di pubblicare questa sua fotografia sulla copertina dell'album. Dunque, Vampire Weekend con Orchada.